Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ragazzi, non potete crederci, ma io qui nel confessionale di Grande Sorella non mi faccio mai mancare le belle ragazze. E sono in compagnia della sposa, che si chiama Eleonora. Eleonora e le due fantastiche amiche Mocca e Sara. Mocca e Sara, da dove venite ragazze? Da Trento. Da Trento, Trento. Wow, sì. Allora, anche l'altro gruppo era da Trento. Siete... Sì, davvero? Sì, il gruppo che è uscito adesso era da Trento. Ma anche dai, loro. Ci siamo persi. Vi siete perse. I matti che avete incontrato stasera, quanti ne erano? Davvero tanti. Si contano sulla mano. Vi vedo sobri a voi, di solito ci sono. In questo momento devo dire siamo. Abbiamo appena fatto due karaoke, siamo sfogati. Ah, cosa avete cantato? Fatemi sentire i ritornelli, dai. Sposa la sposa. Ok. 3, 2, 1. One more time. Ah baby, baby. I wanna see girls tonight. And I wanna girls. I wanna baby. Wow. I wanna girls tonight. E l'altra okay, canzone? Bella, bella, bella, bella, bella, meravigliosa, bella, bella, bella. Abbiamo capito il ritmo, ragazzi. Abbiamo capito. Allora, scopri, adesso siamo in un nuovo programma. Scopri la canzone. Loro, tana, lala. Sarabanda, non lo volevo dire, ma è Sarabanda, ragazzi. Sarà al convento abbiamo anche Sarabanda, ragazzi, voi non potete crederci, ma scoprirete la canzone, chi lo sa, sono brave a farle scoprire le canzoni. E, siete da sole o avete altre amiche fuori? Abbiamo altre amiche. Altre amiche? Quanti ne abbiamo, Ele? Cerca di contarle. Siamo in tutte. 10. In 10 perse per il convento. Sì. Tra la... qualcuno si vede. Fatevi vedere. Però io penso che quando siete così tante bisogna mettere il microchip. Penso anch'io, è una buona idea. Perché altrimenti vi perdete e non vi trovate più nella mischia. Penso anch'io, penso anch'io. Amiche! Fai una se bello, ci siete! Team Bright. Prova, prova, mi senti, dove sei? Sono qui! Quando è la data del matrimonio? 5 agosto. 5 agosto. Nel pieno del caldo, che coraggio che hai! Poverine, le guardo, immagino quel giorno vestite. Viene solo chi ha coraggio. E loro ce l'hanno. Le altre a casa. Giusto, così. Ah, ho capito la tua tattica. Fa caldo. Esatto. C'è la gente che non lo sopporta. Già, E si sta a casa. E giustamente sì. Vengono solo i migliori. I migliori stanno lì. Giusto. I migliori. I migliori sono per... ci vengono anche se soffrono. E il caldo. Ma perché devono esserci? Già, è giusto. Soffrire. Avete incontrato il gallo, la gallina, tutti i conigli? Sì, l'unicorno. Principalmente, sì, l'unicorno c'era. C'era? Sì. L'unicorno era attaccato a dietro noi che ci perseguiva sostanzialmente. Aveva trovata la compagnia l'unicorno. Sì. Voleva ci ha offerto anche da bere intanto. Ah, va bene, dai, era gentile l'unicorno. Grazie unicorno. Unicorno molto gentile. Molto sì, generoso l'unicorno. Comunque adesso lei vedi così, ma in realtà prima era sopra un gnomo per tutto il giorno, sì, quindi adesso la vedi sobria. Lei era su un gnomo? No, ragazze. Io adoro gli gnomi da giardino. Veramente? Sì. Ha una passione. Sono i miei feticci. Uno scoop del Grande Sorella, ragazzi, rimarrà nel confessionale questo scoop. Sì. E fammi sentire, io non lo vedo questo nanetto da giardino, c'è ancora? C'era. Vestito qui davanti a me, pronto per esserci. Ma Dio, allora, è venuto davanti a te vestito e è andato via nudo? Sì. Ah, guarda. Mezzo nudo, quel mezzo. Vedo non vedo che non si sa mai. Fa il suo perché, ma vedo non vedo. Ragazze, voi non avete visto niente? No. Voi non siete. Abbiamo solo voci di corridoio, sono arrivati, c'era questo nano e che era all'azione. Che all'azione il nano con la sposa. No, no. Non si vabbè, può vedere tutto. Però già si sono salutati. Sì, devo dire molto educatamente. Lo porta a casa, in realtà. Sì. No, ma io lo dico io, si sono dati l'appuntamento che dopo si vedono qui fuori. Voi non lo sapete. Adoro. Si danno l'addio prima di andare a Trento. Sì. non glielo quei diciamo. Fuori. Noi glielo diciamo, però, altrimenti loro si imbucano anche loro e vogliono anche loro un anno da giardino. No, ragazze, voi non potete. C'è solo un nano, cioè, un nano è solo per la sposa. Ci sono persone che hanno passioni per nani da giardino, e lei sei l'unica al mondo. Quanti nani da giardino vuoi raccogliere nella tua anche vita? Se lei è alta, quindi con vicino al nano si vede la differenza, capito? Quella è la cosa bella, sì. Che lei è attratta dai nani. Sento una Biancaneve. Il Biancaneve, oh, esatto. Vabbè, la faccia più o meno ce l'ha, la può fare Biancaneve. Sì, guarda, guarda che faccia angelica che ha. È un'angelica. Sotto sotto gatta cicova. Va bene ragazzi, io vi lascio andare a trovare i vostri nani da giardino. È stato un piacere ragazzi, alla prossima. Ciao. Ciao mamma.